mio spirito. Trafitto da lance il mio costato non dà segno alcuno. Schiavo di queste luci, di questi giorni beffardi. Un po' oggi, un po' ieri, un po' ieri, un po' domani. Aghi nelle mani che non riesco a sentire, ma che guardo sanguinare mentre sporcano il mio ventre. Chiudo gli occhi e inizio a urlare.